si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento al sabato e la domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca, le buone notizie, le nuove tendenze che ci salveranno. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. E iniziamo subito con i ringraziamenti, perché ogni settimana, insomma quasi ogni giorno, arrivano delle segnalazioni, le vostre buone storie sul profilo Facebook, per esempio. Esempio del programma si può fare trattino radio 24, anche su Twitter si può fare 24 o alla mail si può fare @radio24.it. E allora ringraziamo intanto Cinzia Ficco col suo blog Tipi Tosti, che ci ha segnalato una bella storia che sentiremo nella puntata di domani, non anticipo altro. E invece Simone Righini, che l'altra settimana ci aveva segnalato i tenores americani venuti con un viaggio in Sardegna a esplorare queste terre, a fare un viaggio culturale alla scoperta della Sardegna, ed era una cosa curiosa anche questa a suo modo. E invece più recentemente ci ha segnalato una cosa di cui parleremo tra un attimo, quindi insomma scrivete, segnalateci le vostre notizie e poi insomma vi meriterete anche una doverosa citazione. Adesso iniziamo con qualche notizia della settimana. Non è chiaro, c'è il governo che è riunito per varare questo decreto fare, speriamo che facciano bene. C'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, potrebbe essere varata dal ministro Zanonato, cioè togliere dalle bollette quella spesa in più, quella accisa in più, quella tassa in più, chiamatela come volete, che invece di andare agli incentivi per le energie rinnovabili andava ai petrolieri. Sapete, è una vecchia storia, Zanonato stima di poter farci risparmiare 500 milioni di euro sulle bollette. Non lo so se ce la farà, speriamo. Questa settimana vi proponiamo di partire da questo. Allora, Marino, appena eletto sindaco di Roma, ha detto pedonalizzerò i fori imperiali. A Firenze Renzi ha pedonalizzato un altro pezzettino del centro, l'ha chiuso al traffico e poi ha detto finalmente adesso le bici possono salire sul tram. Via con la mobilità nuova. A Milano, due giorni fa, il comune ha firmato una convenzione col Politecnico di Milano per studiare la fattibilità di questa cosa qua, una grande opera, riaprire i navigli della città, una roba di cui si parla da sempre, i navigli che sono stati ricoperti in epoca fascista nel 1928, chissà se questa volta ci riusciremo. Tutto questo per dire che cosa? Diciamolo con le parole di Flavio Briatore. Turismo dovrebbe essere il primo ministero italiano, ma non abbiamo strategie. Un anno ti fanno una tassa sulle barche, l'anno dopo sulle spiagge, poi tornano indietro. Non abbiamo regole. Chi investe in Italia non è come se tu giochi a calcio e uno può mettere un muro davanti una porta invece del portiere, perché non ci sono regole. In Italia è un paese che lo straniero vede l'Italia come un paese pericoloso, perché è un paese senza regole. E il sondaggio di oggi è questo, all'800 24 00 24. Possiamo puntare sul turismo? Può essere questa una leva per far ripartire l'economia? Il turismo, che in Italia vale il 10% del PIL, come in Gran Bretagna, dove non c'hanno neanche un monumento, molto meno che in Spagna e Francia, che insieme non hanno la metà dei nostri monumenti. Sentiamo ancora il Vate, Flavio Briatore. Noi abbiamo l'unica azienda vera in Italia che è il turismo. Se voi pensate che noi abbiamo 190 milioni di turisti all'anno, la Spagna ne ha 230. Se noi pareggiassimo solo con la Spagna, credo che abbiamo tutte le possibilità di farlo, avremmo 40 miliardi in più di ingresso, vorrebbe dire due finanziarie. E allora segnalateci tutti i luoghi da valorizzare. Noi abbiamo fatto tre esempi, abbiamo parlato di Roma, di Firenze, ma per esempio c'è anche, poi di Milano, c'è anche Lucca, dove gli artigiani della CNA sono pronti a restaurare a proprie spese, una bella notizia di questa settimana, la piazza del Carmine, a riportarci il vecchio mercato dei mestieri. 800 24 00 24 oppure segnalateci le brutture che ricoprono col cemento spesso le bellezze italiche, che invece possono essere valorizzate. A questo proposito, un aggiornamento di una notizia che avevamo dato un po' di tempo fa. Finally, finalmente è stato abbattuto l'ecomostro di Scala dei Turchi in provincia di Agrigento, uno di quegli scheletri di cemento mai completati che, tra l'altro, sono a fianco ad un sito che è candidato a diventare patrimonio dell'UNESCO. Salutiamo il sindaco di Realmonte, Piero Puccio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Che avevamo già ospitato a suo tempo quando era stato dato l'annuncio che si stava aprendo il cantiere per questo abbattimento. Prima di tutto ci conferma che l'ecomostro è andato giù? Sì, è andato giù completamente, già ormai è tutto stato ripulito. Avete già tolto le macerie? Sì, già, sì, anche le macerie sono state tolte. Perché questo è un problema quando si abbattono gli ecomostri, spesso non si sa. Sì, che fine fanno, sindaco, le macerie di questo tipo qua? Dove vanno a finire? No, nelle discariche autorizzate. Fortunatamente in zona ne abbiamo una e quindi tutto va messo in discarica. Vabbè, meglio in polvere in discarica che costruito lì davanti a deturpare una costa importante anche per il nostro turismo. È questo di cui parliamo anche oggi. 800 24. Ricordo il numero verde 0024 per intervenire. Allora, poi però c'è da dire una cosa, questa è una vicenda complessa, le prime denunce, vabbè, a quando risale questo ecomostro, sindaco? Questa struttura agli inizi degli anni 90-91, con una licenza rilasciata negli anni 80, fra l'altro, e dopo 24 anni di tribunali e storie varie, dopo una denuncia degli ambienti all'epoca, adesso la Procura della Repubblica ha sciolto, diciamo, tolto gli indugi e ha dato il là alle demolizioni. C'è anche un po' una disputa sul chi si deve, diciamo, a chi si deve imputare questo risultato, perché ci sono associazioni ambientaliste, c'è la procura, hanno collaborato tutti, anche il sindaco, anche lei naturalmente. Sì, un po' però di tutti, ecco, sì, ma è vero che è vero come dice qualcuno, e dunque non mi ricordo quale sito, stampata adesso la notizia, che lei pure rischiava di finire in carcere se non avesse autorizzato. Certamente, questa... sì, la procura ha fatto un'ingiunzione che mi ha ordinato di demolire, quindi sarei stato accusato di omissione d'atto d'ufficio, quindi è un atto dovuto che dovevo per forza rendere. Però lei l'ha fatto perché ci crede. Sì, certo, l'ho fatto in tempi record, altri sindaci questo non l'hanno fatto ancora. Ecco, tra l'altro adesso nel mirino ci sono altri tre scheletri di cemento che dovrebbero andare giù a breve, sarebbe un record perché in Italia non si abbatte mai niente. Ci dica. Sì, una notizia di stamattina, saranno abbattuti giovedì prossimo. Ah, giovedì quindi prossimo. Sono qua nel sito, in questo momento mi trovo nel sito. A Lido Rossello? Sì, dove sono con l'impresa e la ditta che demolirà queste strutture. Ma questa cosa ha un costo per l'amministrazione comunale? No, fortunatamente saranno i proprietari a demolire. Siamo messi d'accordo e saranno loro. Altrimenti dovevo fare, dovevo requisire l'immobile e quindi i terreni. E quindi hanno provveduto loro alle spese della demolizione. Quindi tra una settimana esatta potremo festeggiare il fatto che sul suo territorio non ci sono più, o non lo so, magari ce ne sono degli altri, perché c'era una strana concentrazione di ecomostri. Poi abbiamo una piccola struttura sulla Scala dei Turchi che già ho emesso ordinanza di demolizione e sarà battuta pure. Perché quel pezzettino di costa, diciamo impredicato di diventare un sito dell'UNESCO, ho capito sì, male. Infatti stiamo lavorando in quella direzione, sì. Certo, finché ci sono gli scheletri di cemento diventa difficile. Adesso così abbiamo qualche speranza e di rilanciare anche il turismo, no, lì da voi. Infatti abbiamo dato un bel segnale, ecco. Mi raccomando, e poi non autorizzatene altre di queste cose qua, perché sennò da una parte si distrugge, dall'altra sì. Mi aiutano in questo. Va bene, allora congratulazioni a tutta la collettività, a tutta la comunità di Agrigento, grazie. Di Realmonte, il sindaco, la procura, le associazioni ambientaliste che hanno fatto la loro parte sicuramente, anzi hanno sollevato questa questione qua. Sì, intanto grazie, in bocca al lupo, e non so, ce l'avete l'audio, il video della demolizione, perché sono momenti storici. Sì, ma sul sito troverete tutto, sui siti vari troverete qualcosa. Perché io ho trovato qualcosa, ma non si vedeva al momento proprio della demolizione, comunque. Se riesco vi mando qualcosa io. Bravo, grazie, a presto. Salve, grazie a voi, buona giornata. Si può fare cronache da un paese migliore. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Fine. E ci piacerebbe che oggi a chiamare fossero anche gli amministratori pubblici, sindaci, assessori di piccole e grandi città, o anche semplici cittadini che ci segnalano i tesori che si sta cercando di riscoprire o che vanno riscoperti per valorizzare il territorio italiano. Ricordiamo che il PIL, il turismo sul PIL in Italia vale meno che in paesi dove ci sono molti meno monumenti che da noi. Quindi qualcuno al 349-238-6666 ci scrive: ma perché dobbiamo puntare sul turismo? Non puntiamo sicuramente su Briatore. Nessuno però l'ha detto con altrettanta chiarezza, secondo me, questa cosa qua, e noi ci insistiamo. Adesso però veniamo a un'altra storia che riguarda Milano, un progetto. Abbiamo sentito una cosa realizzata, una cosa invece da fare a Milano è la riapertura dei Navigli. Se ne parla da una vita, una cosa milanese ma che può interessare, io credo, un po' tutti. Salutiamo il vice sindaco di Milano, che abbiamo qua con piacere, Ada Lucia De Cesaris. Buongiorno. Buongiorno. Perché qualche giorno fa avete fatto un passo in più, cioè avete firmato una convenzione col Politecnico di Milano per studiare la fattibilità di quest'opera. Si fa sul serio stavolta? Beh, cerchiamo di fare sul serio. 2 anni fa il referendum, poi il disegno dei Navigli sul piano del governo del territorio, adesso cominciamo a metterci la testa seriamente. È un'opera complessa, è un'opera importante, qualcuno ha detto un sogno, altri hanno detto un'utopia, ma bisogna crederci e soprattutto bisogna lavorarci, e abbiamo cominciato a lavorarci. È vero che questa cosa disegna anche una scelta per il futuro, una strategia, una visione della città, cioè una città, ricordiamo che i Navigli sono stati chiusi quando? Nel 1928? Sì, nel 1928-29, sì. In epoca fascista, anche per ragioni di igiene pubblica, perché c'erano gli scarichi, adesso naturalmente è tutto diverso. Recuperare una tradizione di una città che come vuole essere? Significa veramente voler dare un nuovo disegno alla città e appunto anche una nuova visione, ma intanto continuare nella scelta di una mobilità diversa, quantomeno per alcune parti del centro della città, e poi riattivare un sistema diverso di comunicazione, ma anche interventi di profonda riqualificazione, pensiamo a tutto il tratto di Melchiorre e Gioia, e poi utilizzare anche questo progetto per risolvere alcuni problemi, quali quelli ad esempio del Seveso. Quindi tanti elementi messi insieme di qualità, di funzionalità, di mobilità, che possono far bene a Milano e far bella a Milano. Ecco, ma andando un po' su, chiaro che non si possono fare previsioni, andando un po' però sul concreto, lei che possibilità si dà? C'è una scala da 0 a 100, ci avrà pensato, no? Ma stiamo parlando della realizzazione concreta? Sì. Ma guardi, è un'opera molto molto complessa e noi stiamo andando anche verso i grandi cantieri di Expo e per la Darsena e per le vie d'acqua. Io sarei già contenta se prima della fine del mandato riuscissi quantomeno ad avviare il progetto per alcune conche, ma comunque a lasciare un procedimento avviato che chi può poi venire dopo di noi sarà in grado sicuramente di portare a compimento. Insomma, voi ci credete a questa cosa qua? Non è una cosa che si fa solo per... perché ricordiamolo, ci furono i referendum esattamente quasi 2 anni fa, esatti. Sì, 2 anni fa dal 13. Ed una cosa su cui si votò, quesito approvato, anche quella era proprio questa questione di riscoprire una parte di questi Navigli, renderli di nuovo canali navigabili, eccetera. È una cosa su cui credete, oppure è un po' un ossequio anche a questo risultato, per quanto con un po' di ritardo, vabbè, ma insomma... Allora, guardi, intanto contesto il ritardo, perché subito dopo il referendum la prima cosa che abbiamo fatto è appunto mettere il disegno nel piano, se non l'opera non sarebbe possibile e soprattutto l'opera non sarebbe in salvaguardia. E secondo, ripeto, è un progetto molto complesso, quindi non possiamo non studiare. E poi tutte e due le cose, da una parte il rispetto per l'esito del referendum, perché un'amministrazione deve avere rispetto di questi momenti istituzionali importanti ma anche di partecipazione, e poi ci vogliamo credere perché la città ci crede e lo chiede. Guardi, non da quando abbiamo sottoscritto la convenzione sono stata tempestata di mail, di messaggi, di interventi che hanno ringraziato la città di volerci credere, perché è un sogno per una Milano diversa, e quindi ci vogliamo credere veramente. Quindi diciamo l'appuntamento potrebbe essere entro la chiusura del mandato, cioè altri 2 anni praticamente. Sì, 2 anni e qualcosa. 2 anni e qualcosa, ad avere fatto che cosa, ce lo ripeta? Ma io spero di poter quantomeno intervenire su una delle 2 conche, e forse aver un progetto che può essere poi messo nel piano delle opere pubbliche. Quindi un progetto più generale ed intervenire già... su una delle due conche, anche un problema finanziario molto serio. Sì. Adesso dal punto di vista del bilancio. Quale delle due conche? Così. Ma insomma potrebbe essere prima l'Incoronata, che è quella più semplice, però e poi quella di Varenna, però le ripeto, è anche un problema finanziario molto serio, quindi ci siamo dati tempo fino a dicembre 2013 e poi lì ci rimetteremo la testa e vedremo che cosa è possibile fare, per piccoli passi ma determinati. E va bene, grazie. Allora, Dada Lucia De Cesaris, vice sindaco di Milano, un sogno che torna a vivere e riaprire i navigli della città. Grazie a voi, buona giornata. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la terra di cachi. Oh, allora, va bene, insomma, puntare sul turismo, sulle tradizioni in Italia, però sentite questa qua, è incredibile. A Capodimonte la giornata dell'uncinetto, oggi proprio si svolge in provincia di Napoli, la giornata dell'uncinetto, però non crediate che sia una passione solo italiana, è una cosa mondiale, l'ha lanciata Daniel Lanes, un'americana, nel 2005, il World Wide Night in Public Day, che si celebra appunto in tutto il mondo. Pare che tra gli appassionati dell'uncinetto ci siano Julia Roberts, Uma Thurman e anche Russell Crowe. Vedete Russell Crowe a fare l'uncinetto? Io no. Ah, un'altra notizia per la nostra rubrica Ho visto cose è questa, può essere un suggerimento anche per una futura attività imprenditoriale. Si può ripartire dalla canapa, la stessa che si usa anche per fare la marijuana, però in dosi con concentrazioni ammesse dall'Unione Europea ma anche dal Ministero dell'Agricoltura. Pare che la canapa, è stato detto anche poco tempo fa in un importante convegno, abbia delle proprietà importantissime. Si fanno mattoni antisismici, si fanno pannelli per la riqualificazione energetica, fono e termoassorbenti. Insomma, bisogna ripartire dalla canapa, che serve a tante cose, contro la desertificazione dei territori, insomma. E quindi questo potrebbe essere un progetto imprenditoriale anche per qualche giovane interessato. Va bene, ci fermiamo, facciamo una breve pausa, poi anzi no, vogliamo sentire un ascoltatore. Ci abbiamo già all'800 24 0024 Claudio da Cremona, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Ah, io le telefono per promozionare la mia città e sì, per le sue peculiarità. In particolare Cremona ha una eccellenza che credo sia conosciuta in tutto il mondo e che viene poco sfruttata da noi cremonesi, è la liuteria. Da qualche tempo la liuteria è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO. È vero, si tratta di una nicchia, però siamo universalmente conosciuti grazie alla nostra scuola di liuteria e ai nostri massimi liutai. Le ricordo solo Stradivari, sì, e naturalmente anche gli Amati, i Guarneri del Gesù. Beh, insomma, è una nicchia, però è importante. State facendo cose, penso di sì, se no non sarebbe diventato sì, patrimonio dell'UNESCO, cose, per valorizzare. Verrà sì, al più presto, e questo il più presto vuol dire a settembre, inaugurato un museo del violino che sarà sì, unico al mondo, perché raccoglierà i prodotti di questi massimi liutai e farà vedere ai visitatori come nasce un violino, e sarà, ripeto, una delle eccellenze del nostro bravi, territorio, che non ha solo questa di però questa sicuramente, ognuno poi deve riscoprire e valorizzare i propri gioielli, è chiaro, no? Le cose che gli altri non hanno. Grazie Claudio da Cremona per questa sua telefonata, tra poco ne sentiremo delle altre. Al numero degli SMS ci scrivono questo da Genova, solo di Genova: speriamo che riaprano i navigli, così Bauscia non ci vengono più a rompere il belino qui da noi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Ricordo i nostri contatti: si può fare trattino radio 24 per cercarci su Facebook, si può fare 24 su Twitter, io Ale Maurizi, e poi al 349-238-6666 qualche SMS. Allora, c'è Andrea che ci sta scrivendo compulsivamente: ha ragione Briatore, leggo, però censuro, un C puntato berlusconiano, ma che dice una cosa sacrosanta e l'argomenta bene. Un'idea buona, indipendentemente da chi la dice. Parliamo, lo facciamo risentire, ce l'abbiamo Briatore, vai, facciamo sentire il secondo Briatore, va. No, non ce l'abbiamo, adesso lo recuperiamo, così poi chi si è messo all'ascolto adesso sa di cosa stiamo parlando. Ce l'abbiamo. Noi abbiamo l'unica azienda vera in Italia che è il turismo. Se voi pensate che noi abbiamo 190 milioni di turisti all'anno, la Spagna ne ha 230. Se noi pareggiassimo solo con la Spagna, credo che abbiamo tutte le possibilità di farlo, avremmo 40 miliardi in più di ingresso, vorrebbe dire due finanziarie. E poi sempre Andrea ci scrive: la canapa è una pianta miracolosa, vabbè, se non lo sai documentati, in senso non polemico, dice, e che solo l'interesse delle multinazionali americane tiene nascoste. Questa cosa delle multinazionali americane sulla canapa bisognerebbe spiegarla, Andrea, per cui magari se ci vuoi chiamare 800 24 0024. A proposito, abbiamo un ascoltatore, Raffaele, che ci chiama dalla provincia di Olbia, eccolo qua. Buongiorno dottor Maurizio. Maurizi, Raffaele, Maurizi, sì. Olbia, Olbia Tempio, com'è la vostra provincia? Quante province ci sono in Sardegna adesso? 8? Ma adesso ce ne sono 8, anche se 4 sono state eliminate. Però io le volevo dire che chiamo da Arzachena, che è il comune della Costa Smeralda, di Baia Sardinia, di Portucuato, di Canigione Laconia. Ma ho chiamato per dirvi che, intanto complimenti per l'argomento proprio della trasmissione. Ma per dirvi che anche qui, la tanto poi da sotto certi punti di vista vituperata Costa Smeralda, anche qui è un'incompiuta, non riusciamo a fare campi da golf, non riusciamo a fare beauty center, non riusciamo a fare piste ciclabili, non riusciamo a fare centri congresso, perché tutto rovina e tutto inquina, quando poi invece in nome dell'ambiente non si può fare niente, e poi dopo si fanno capannoni industriali a nastro che poi non servono a niente. Allora, attenzione però Raffaele, perché non è che tutto rovina e tutto inquina, non si possono più costruire mostri come quelli che poi spesso vengono buttati giù dopo perché non sono mai stati utilizzati. No, certo, ma noi non siamo c'è per i mostri, tutto un patrimonio da recuperare. Allora, grazie, intanto grazie a Costa Smeralda l'ha dimostrato, perché hanno costruito benissimo con i migliori architetti del mondo usando i graniti. Ma quello che si è fatto in passato non si può più fare adesso, non si può più costruire, bisogna recuperare. C'è una iniziativa, grazie Raffaele, che vi dicevo in apertura, che ci ha segnalato Simone Righini, ed è www.sardegnaabbandonata.com. Capita proprio a Fagiolo. Andate sul sito a vedere, e la quantità di architetture industriali, ma anche non, abbandonate che ci sono sull'isola e che andrebbero o buttate giù o riutilizzate per far qualcosa, come quello che diceva lei per esempio. Quindi non c'è bisogno di costruire, c'è bisogno di recuperare. Per esempio ci sono dei padiglioni Liberty inizio Novecento bellissimi, e recuperiamoli, no? E così si ottengono due risultati in uno, altrimenti si continua a cementificare. Poi turisti, caro Raffaele, in Sardegna non ci verranno più. Abbiamo un altro ascoltatore, lo facciamo? Un'ascoltatrice, Maria Rita dalla provincia di Piacenza. Buongiorno Maria Rita. Buongiorno a voi. Lei per cosa chiamava? Io chiamo per i castelli del Ducato di Parma e Piacenza, che è un territorio stupendo, che era già un ducato al periodo di Maria Luigia e che adesso si sta riscoprendo, e per la bellezza dei castelli, delle colline con i vigneti, ma anche per tutto il patrimonio enogastronomico che c'è. Insomma, è una zona a due passi da Milano, da Bologna, da Brescia, che è poco conosciuta e che merita veramente la pena di un viaggio. Grazie anche a lei per questa segnalazione, Maria Rita, dalla provincia di Piacenza, i castelli di Parma e Piacenza appunto. L'Italia è piena di roba naturalmente, ma tutto sta a valorizzare, se no finisce appunto che abbiamo gli stessi turisti, la stessa introiti per il turismo dell'Inghilterra. È incredibile questa cosa qua, com'è possibile? L'Inghilterra, ma cosa ci vanno a fare i turisti in Inghilterra, che piove sempre? E invece noi dobbiamo sfruttarla di più sicuramente questa cosa qua. 800 24 0024, tra poco magari sentiamo qualche altro ascoltatore. Amici, passioni, famiglia, la casa, la mia vita distrutta da un solo tasto. Potrei dire basta, ma per oggi non posso. Fatto sta che chiudo l'ennesima volta in rosso. Un'altra notte in bianco, sai che novità qua? Resto a tasche vuote perché ha vinto ancora il banco. Non capisco neanche se siete, se sono stanco, se ho fame, striscia la menzogna sotto banco. Scordo il matrimonio coi confetti, gli affetti, le mie relazioni le ho schiacciate come insetti. Da domani smetto, ma da dove cominci? Se pago la bolletta in posta e trovo e gratta e vinci, compro il cellulare con adesso un aggiornamento preparata. Sulla questione slot no slot, abbiamo scelto questa musica Azzardopatia dei ragazzi della Casa del Giovane di Pavia, che è la capitale italiana delle slot machine. Ce ne sono, c'è il record in questa città, no, pro capite per abitante di macchinette, sia nelle slot house che nei bar e nelle semplici tabaccherie. Ma anche la capitale è un po' della riscossa, no? Ci stiamo un po' svegliando. Avete fatto caso intorno a voi che stanno nascendo slot house da tutte le parti? cioè spariscono i negozi, spariscono i locali e aprono queste sale giochi con le pareti esterne a vetri ma oscurate, non si vede dentro. È un po' inquietante, no, tutto questo. Io ci sono entrato una volta, ma è insomma abbastanza triste tutto questo. I matematici vi aprono gli occhi, quelli del Politecnico di Milano, con un progetto di cui parliamo subito. Salutiamo Marco Verani, ricercatore del Politecnico. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, è un progetto del Politecnico di Milano, adesso spiegheremo bene, Polisocial Award, iniziativa del Politecnico e della Fondazione Politecnico di Milano, che ha destinato il 5 per 1000, tra l'altro siamo un tema, se ne è parlato nei giorni scorsi, del 2011 a progetti che hanno anche uno sfondo sociale. Tra questi c'è anche il suo, Marco. Di che cosa vi occupate? Cosa state facendo voi? Sì, noi diciamo, prima di tutto siamo partiti, diciamo, abbiamo deciso di rispondere a questa chiamata del Politecnico, del Polisocial Award, partendo da un'osservazione della società. Se mi permette un attimo, prendendo spunto un attimo dalla canzone, dal rap con cui siamo partiti, in Italia ci sono 80 miliardi di euro giocati nel 2012, questa cifra è quadruplicata dal 2008. Se lei pensa che sono ogni persona, neonati, anziani inclusi, giocano 1200 euro all'anno nel gioco d'azzardo. Questo 1200 euro all'anno ogni persona, neonati e anziani inclusi, 1200 euro. È una fotografia che dice che è una vera emergenza sociale il gioco d'azzardo. Se poi pensa che i soldi spesi al gioco e persi al gioco nel 2012 sono in Italia 19 miliardi, allora uno dice sono tanti o sono pochi. Noi siamo, quindi 19 miliardi, nel 2012 siamo quarti al mondo dopo l'USA, dopo gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, e se lo consideriamo come un impatto al PIL, siamo secondi, secondi dopo il Canada. Okay. E poi pensa che potenzialmente ci sono quasi un milione di ludopatici, questa è una fotografia inquietante. E allora noi come Dipartimento di Matematica, come matematici, che diciamo, facciamo della nostra professione, diciamo, la una delle componenti della nostra professione è trasmettere i concetti matematici, ci siamo sentiti chiamati in causa, perché alla base del gioco d'azzardo c'è la matematica. Questo perché per uno come voi, come lei, insomma, che la matematica la frequenta, diciamo, il gioco d'azzardo che cos'è? È una cosa da fare così una volta ogni tanto, però senza riporci alcun tipo proprio di speranza, perché i numeri parlano chiaro, no? I numeri parlano chiaro, adesso arrivo subito al centro della discussione, ma alla base del gioco d'azzardo c'è la matematica, ma diciamo, alla base del comportamento dei giocatori c'è una disinformazione, ci sono cattivi concetti matematici, c'è una non conoscenza dei giochi matematici, e di questa non conoscenza si nutre, diciamo, questa mercificazione della speranza di poter... Allora, voglio dire subito una cosa, perché questo concetto è fondamentale, poi le faccio proseguire, Marco Verani. Una disinformazione, una scarsa conoscenza dei concetti matematici, uno potrebbe pensare semplicemente no, è che uno ci vuole credere, paga per vivere un momento di sogno. Questo sicuramente fa parte del gioco. Però poi ci sono delle convinzioni radicate, che adesso Marco vi spiegherà, che invece è un'altra cosa. Per esempio, una delle convinzioni che anch'io avevo e che mi ha stupito è che uno pensa che continuando a giocare la probabilità di vincere aumenti perché se si è perso fino ad ora. Cioè io gioco 20 volte, perdo sempre, allora si avvicina la volta in cui vinco. Invece? No, è esattamente, diciamo, il contrario. Se lei immagina di giocare alla roulette, no? E gioca ed esce il colore rosso per 6-7 volte successive, a un certo punto le persone sono portate a pensare che il nero uscirà con una probabilità più alta, ma questo è assolutamente falso, cioè il nero e il rosso usciranno con la stessa probabilità, non è che la roulette ha memoria del fatto che è uscito il rosso per 6 volte successive, come quando lancia la moneta, esce testa 6 volte successive, non è che la moneta si ricorda che è uscita testa 6 volte consecutivamente, allora c'è più probabilità che esca il croce alla volta successiva. Questo è un concetto matematico sbagliato, una cattiva interpretazione della legge dei grandi numeri. Che poi, ecco, questa cosa qua io immagino si salda nella mente di molte persone con questa voglia di illudersi e con questa ossessività a ripetere, per cui vediamo appunto la gente che infila monetine nelle macchinette ossessivamente, poi, nella convinzione che poi succederà qualcosa. Nella convinzione che poi dopo uno possa cambiare la propria vita. Se pensa che le slot machine, quelle che si trovano ovunque, sono pervasive, hanno invaso le città, quelle nelle tabaccherie, restituiscono, in media, il 75% del denaro giocato, allora questo lei capisce che lei se si mette lì, continua a giocare, continua a inserire tutti i soldi, lei perderà, questo è matematico, il 25%, quindi non cambierà la sua vita, perderà il 25%. Ecco, sì. Voi vi occupate anche, cioè con questo progetto che viene finanziato dal Politecnico di Milano, volete fare un portale per informare, volete fare dei corsi per esempio anche nelle scuole, e credo che sia interessante anche immaginare l'approccio con i ragazzi, no, su queste questioni qua, che sono curiosi i ragazzi. Magari le persone più mature possono vivere questi ragionamenti come gli si toglie un sogno che poi magari li rovina pure, però intanto c'è questo aspetto. Invece i ragazzi, voi puntate su questo, no? Informazione. Il progetto è disegnato su 2 anni, ha 2 componenti. Uno è disegnare un percorso formativo per gli studenti delle scuole superiori, ma che non sia la solita lezione frontale. Noi vorremmo, diciamo, attirare gli studenti, fare riscoprire agli studenti le leggi delle probabilità corrette con degli esempi concreti. Cioè, quando uno, le faccio un esempio, capire che la probabilità di vincere al Superenalotto è 1 diviso 1 su 600 milioni. Uno dice, ma quanto è? È tanto? È poco? Bisogna capire, ad esempio, che la probabilità che l'asteroide nel 2068, la FOFIS 99942 colpisca la Terra, questa probabilità che la colpisca è 1 su 400.000. Allora, probabilmente uno deve dire, è più probabile che l'asteroide colpisca la Terra piuttosto che io vinca il premio massimo al Superenalotto. Di questo uno deve capire cosa significa la probabilità, cosa significa che un evento è improbabile o probabile. Oppure quando uno dice vado win for life, la pubblicità dice giocare è facile, vincere di più, benissimo, 4.000 euro al mese è il premio promesso per 20 anni, quant'è la probabilità di vincere? 1 diviso 3 milioni. Allora, 1 diviso 3 milioni è ancora meno probabilità della probabilità che l'asteroide colpisca la Terra. E questo, diciamo, vogliamo fare scoprire le vere leggi della probabilità agli studenti attraverso degli esempi concreti. E sul portale vorremmo caricare, diciamo, dei simulatori di giochi d'azzardo per far capire come le probabilità cambiano, quanto è la cifra che viene effettivamente vinta, quanto è quella che effettivamente effettivamente persa. Mettere sul portale del materiale, dei blog per confrontarsi. È un portale che sia a disposizione di tutti coloro che vogliono mettere in gioco le proprie competenze per mettere un argine alla disinformazione, non a demonizzare il gioco, ma a rendere le persone libere di poter scegliere se giocare o non giocare, ma libere di sapere a che cosa vanno incontro. Perché, diciamo, il messaggio che, ritornando al rap iniziale, il messaggio che cambiare la propria vita con il gioco d'azzardo sia facile, no, questo è assolutamente una invenzione ed è una mercificazione della speranza. Torno ancora su questo, che secondo me è molto importante. E va bene, viva la libertà di sapere, di informazione, grazie a voi del Politecnico di Milano per questo progetto che portate avanti. Magari quando diventerà più concreto torneremo a parlarne. Intanto, se c'è qualche scuola, qualche insegnante all'ascolto che è interessata a questa cosa qua, insomma, fatevi vivi, perché loro poi andranno nelle scuole a parlare con i ragazzi, eccetera eccetera. Grazie Marco Verani, intanto buona giornata. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo anche un altro ascoltatore, lo sentiamo subito, Ernesto, che ci chiama da Potenza. Buongiorno Ernesto. Buongiorno Maurizio, prima di tutto io chiamo da Cosenza, non Potenza. Infatti, perché a me hanno scritto Potenza, però insomma. No. C'è una certa differenza. Direi proprio di sì. Volevo proprio ricollegarmi a quello che diceva il Briatore. Noi, per esempio, in Calabria abbiamo tanti posti bellissimi. Le faccio un esempio, un piccolo paesello vicino a Cosenza, tipo Aiello Calabro. D'estate rivive perché arrivano tutti. Probabilmente la nostra Calabria dovrebbe essere conosciuta di più perché sarebbe apprezzata meglio. Ne ho sentito parlare di Aiello Calabro, però dovrete fare anche un po' di autocritica, perché insomma la costa, per esempio, lì da quelle parti ci sono gli ecomostri. Noi ne abbiamo parlato in Sicilia, ne hanno buttato giù uno. Fate qualcosa anche voi. Dovremmo farlo sicuramente. In ogni caso, armatevi di piccone e andate a buttarli giù. Lo faremo. Mi raccomando. Grazie Maurizio, buona giornata. Grazie Ernesto, che ci chiamava non da Potenza. Perché avete scritto Potenza? Si sentiva anche dalla voce che era calabrese. Va bene, adesso siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora il tempo per un'altra bella storia, una buona notizia. Imagine me and you, I do, I think about you day and night, it's only right. About the girl you love and hold her tight. so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. La notizia è questa: lavoratori felici, lavoratori più produttivi, è un filone che si sta estendendo sempre di più, accade alla SACE a Roma, dove da un po' di tempo c'è anche l'happy manager, cioè pensate, uno che si occupa proprio della felicità dei dipendenti. Salutiamo Paolo Cerino, direttore della comunicazione interna di SACE. Ciao Alessio, buongiorno. Eccoci qua, Cerino. Paolo. Paolo. Tra le tante cose che fate c'è anche questa dell'happy manager. Intanto diciamo una cosa, SACE è un gruppo pubblico, però gestito privatamente, no, come un soggetto privato, non è in debito, non è in deficit. No, e quindi, no, ecco, è un'agenzia che si occupa di aiutare le imprese che esportano, l'import-export. Semplificando possiamo dire che offriamo garanzie e prodotti finanziari alle imprese italiane che intendono allargare la loro attività. Però insomma è un luogo di lavoro, ecco, dove ci sono tanti dipendenti, alcune centinaia a Roma. State sperimentando questa cosa dell'happy manager, di cosa si occupa? Ma guarda, è un progetto che entra all'interno di tutta quanta la logica della gestione del personale, è un progetto che mira a intercettare, a comprendere quali sono i bisogni delle persone. Oggi le aziende, come sanno tutti quelli che lavorano in un'impresa, si devono fare parte attiva per sostituirsi a quelle che forse erano le risposte che prima venivano da un welfare più pubblico. E quindi da alcuni anni noi abbiamo cominciato a ascoltare, quindi si parte sempre da un concetto di ascolto, ascoltare quali sono le esigenze dei nostri dipendenti, che sono molto differenziate, perché consentimi di dire, sono persone anziane, ci sono persone giovani, laureati, diplomati, con famiglia, single, quindi è molto complesso nella fase soprattutto iniziale della progettazione di queste iniziative. Una volta compreso, una volta ascoltato, l'azienda comincia a sperimentare delle iniziative. Allora, happy manager è quella figura, ma forse è meglio quella figura aziendale, che dà delle risposte che partono dalle esigenze più semplici. Te ne faccio una: il rinnovo della patente, per esempio, che sembra una cosa così banale, da noi è possibile farlo, basta comunicarlo al nostro ufficio e viene un incaricato con il medico, una volta al mese fanno la visita e rinnovano la patente. Queste così sono piccole iniziative, sono come delle piccole tesserine, però cioè, noi abbiamo volete presente fare in modo che la gente non esca più dall'ufficio, no? Si fa tutto in ufficio, no, questo è un modo noi vogliamo che la gente sia spesso anche a casa, sì, sia serena, sia completa. Sì, perché tra le cose fate anche il telelavoro, certo, la mia era solo una battuta, una battutaccia. No, ma mettiamo anche la bicicletta, allora, se per questo allora li invitiamo a uscire, perché tenendo conto del fatto che noi abbiamo la sede nel cuore della città, sì, e purtroppo Roma non è una città molto amica della mobilità sostenibile, noi abbiamo costituito già da 3 anni un punto di bike sharing interno, quindi il dipendente prende la bicicletta, sa, fa la sua commissione o va a fare una riunione o si sposta di sede per andare in qualche altro ufficio, riporta la bicicletta e si è spostato senza fatica, senza inquinare. È una delle tante cose, purtroppo non abbiamo più il tempo per parlarne. Comunque una bella iniziativa questa qua della SACE. Comunque per la bicicletta ci pensa adesso, ci pensa Marino, con la pedonalizzazione, ha detto che lo farà. Va bene, ci dobbiamo fermare qua. Io ringrazio Benedetta Acri per la redazione di oggi, Franco Piantanida, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Peter Bescapè in regia. Me mi trovate su Twitter @AleMaurizzi. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, buona giornata. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente una buona notizia. Vi ha presentato Si può fare. Cronache da un paese migliore.